Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Il futuro degli spot impacchettati in una app per viaggiare leggeri sugli schermi dei nostri telefonini. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di mobile marketing, pubblicità e marketing via cellulare, un settore in forte crescita e ad alto tasso di innovazione. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di e-commerce, enorme sul ritiro degli elettrodomestici usati e per il focus sui trend di revival, quando la nostalgia fa tendenza. Iniziamo come sempre però con le notizie e curiosità di questa settimana. Visitare 17 tra i più celebri musei del mondo attraverso il computer di casa. Da oggi è possibile grazie ad Art Project, il nuovo servizio di Google che porta la tecnologia Street View all'interno di musei come la Galleria degli Uffizi o il MoMA di New York. È frutto della creatività dei bambini di Dynamo Camp la nuova scarpa firmata Jimmy Choo, il marchio cult di calzature e accessori di lusso. La scarpa, in edizione limitata, è stata scelta tra i disegni arrivati dal primo campo in Italia per bambini affetti da malattie croniche o in convalescenza post-operatoria. L'intero ricavato dalla vendita sarà devoluto a Dynamo Camp. È rivolto alle scuole il progetto L'appetito vien studiando, promosso dalla catena di ipermercati Iper La Grande I. Mira a sensibilizzare e formare i ragazzi di prima media sull'alimentazione consapevole, attraverso incontri didattici e prove sul campo. Acquisto e preparazione di cibi, si inizia col pesce, al supermercato. Anna Chapman, l'avvenente ex spia russa smascherata lo scorso luglio negli Stati Uniti, conosciuta anche come Anna la Russa, diventa un marchio commerciale. Con il suo consenso, il suo nome potrà comparire ovunque, dalla biancheria intima ai prodotti cosmetici, dalla vodka ai vestiti. La gente ha infatti ottenuto la registrazione come brand delle proprie generalità. Da Messina a Torino senza passare dal via. È il Monopoly on Tour, un viaggio per toccare le 22 città che andranno a comporre il tabellone del nuovo Monopoly Italia, prima versione tricolore del famoso gioco da tavolo. Un totale di oltre 3.000 chilometri che verranno percorsi a bordo di due simboli del Made in Italy, una Vespa e una Fiat 500. La borsa della spesa. Messaggini, ma non solo, anche i nuovi formati come le app sugli smartphone o i servizi di geolocalizzazione fanno sempre più presa sulle aziende e sui consumatori in fatto di pubblicità. Si stima che il mercato del mobile advertising italiano nel 2010 sia cresciuto del 15% rispetto al 2009, raggiungendo una quota di 38 milioni di euro. Tuttavia, in termini assoluti, si tratta dello 0,5% sul totale degli investimenti pubblicitari. Dagli smartphone, che già l'anno prossimo sorpasseranno come diffusione i telefonini tradizionali, ai tablet, entrati persino nel paniere dell'Istat, notizia di due giorni fa, passando per gli e-book reader, i supporti insomma si moltiplicano. Pensate che secondo le previsioni di diversi analisti già nel 2013 gli utenti che si connetteranno ad internet da supporti mobile supereranno a livello mondiale quelli che si connetteranno dal PC. Ma un'app non fa primavera, ricorda l'Osservatorio Mobile Marketing and Service della School of Management del Politecnico di Milano, che con questo slogan ha fatto il punto sul fenomeno. Il cellulare sta diventando sempre di più un canale privilegiato per comunicare con i consumatori, ci dice il responsabile della ricerca Andrea Boaretto, che ci spiega lo scenario dei nuovi formati. Nuovi formati come le app sono sostanzialmente il fatto di portare contenuti della marca in un contesto di mobilità e sul palmo di mano del consumatore, ovvero la marca si mette in discussione e porta contenuti o di engagement o di servizio. Facciamo un esempio: Barilla, che ha sviluppato iPasta e in cui porta ricette regionali con facilità d'uso, ma nonché anche servizi di engagement come il Dosa Spaghetti, toccando lo schermo del telefonino si allarga un cerchio che dà la dose specifica degli spaghetti. Il mobile site invece è semplicemente portare il sito internet dell'azienda accessibile dal telefonino, quindi ridisegnando la grafica e la funzionalità d'uso. La geolocalizzazione vuol dire tante cose, vuol dire in prima battuta il geomapping, ovvero la possibilità di localizzare sulle mappe degli esercizi di interesse, vuole anche dire utilizzare nuovi servizi come social network, il più famoso Foursquare, GoWalla, Facebook Places, e dare servizi geolocalizzati sempre prevalentemente legati al retail, infine anche quelli che sono i cosiddetti store locator, ovvero attraverso il mobile site o le app trovare il punto vendita di interesse della marca in oggetto. Noi diciamo che il cellulare rappresenta un vero e proprio social medium, cioè l'estensione digitale del consumatore, in quanto lo accompagna in tutta la giornata, in tutti i momenti di vita, e soprattutto permette di svolgere molteplici funzionalità, non solo legate alla comunicazione. Questo per le aziende implica di conoscere in profondità le peculiarità dello strumento. È uno strumento personale, immediato, che implica interazione e, come dicevamo prima, consente anche di localizzare le persone e dare informazioni contestualizzate. Interessante il fenomeno dei mobile coupon buoni sconto via cellulare che si stanno diffondendo anche in Italia. Il mobile coupon vuol dire semplicemente avere buoni sconto via SMS, via cellulare. Ci sono diverse modalità. Una modalità molto più semplice è che l'impresa, il retailer in questo caso, manda un buono sconto e il consumatore va in cassa, esibisce il cellulare e gli fanno lo sconto lì promesso. Ci sono funzionalità più evolute in cui addirittura non serve neanche esibire il telefono cellulare, ma se il consumatore è iscritto a programmi fedeltà con le tessere del supermercato, semplicemente quando va in cassa e compra il prodotto oggetto della promozione viene fatto direttamente lo sconto, o infine il vero e proprio coupon, che si tratta di un codice a barre, il consumatore lo riceve sul telefonino, passa il cellulare sullo scanner della cassa e viene fatto lo sconto. E nel futuro? Servizio e interazione ludica sono due tra gli elementi principali che anche nella nostra survey sono emerse di interesse da parte dei marketing manager. Engagement, realtà aumentata, significa sostanzialmente che il telefonino è lo strumento che consente di dare informazioni, servizi a valore aggiunto, ma anche divertimento al consumatore, mentre nei contesti urbani, ma attenzione, mentre è anche nel punto vendita. Possibilità quindi di trovare nuovi formati, mentre il consumatore sta facendo la spesa, avere informazioni o anche momenti di divertimento, per esempio inquadrando con la fotocamera il prodotto in oggetto. Al riguardo Google ha già sviluppato un applicativo in tal senso. Cambiamo argomento, parliamo di Amazon, il più grande negozio di e-commerce al mondo. Sbarcato da pochi mesi in Italia, Amazon.it conta già 4 milioni di visitatori. Ma c'è un ma, ce lo rivela il consueto spillo del direttore di Markup Luigi Rubinelli. Molti clienti, quando Amazon, il sito internet americano famoso per i volumi di libri venduti, ha annunciato che sarebbe entrato in Italia, hanno esultato. Finalmente un sito dedicato, un servizio personalizzato e vicino, hanno detto. Amazon ormai vende di tutto e quando entra in un nuovo paese lo fa con cautela, quasi in punta di piedi. Amazon.it in realtà è un sito francese, nel senso che la sede e soprattutto il magazzino di spedizione sono ubicati in Francia. Forse, proprio per questo, pensano però di aggirare le leggi vincolanti che esistono nel nostro paese. Facciamo un esempio. Se un cliente acquista un prodotto di elettronica di consumo o un piccolo elettrodomestico oppure un computer, esiste il RAE, il sistema collettivo, privato, professionale per il ritiro e lo smaltimento dei prodotti usati. Così se si va all'Unieuro o al Media World si può chiedere pagando il ritiro del prodotto che non si userà mai più. Amazon invece non si fa carico di questo servizio che è diventato ormai, oltre a un obbligo di legge, anche un must sulla responsabilità ambientale e civile da parte di chi vende. Il cliente ovviamente non sa nulla di tutto questo. Si rivolge ad Amazon per la forza del suo brand perché ha già provato ad acquistare libri dal sito americano. Oggi però Amazon affronta una nuova sfida commerciale, soprattutto si confronta con retailer che hanno obblighi che a lui non sembrano interessare. Non sarebbe il caso che il sito si allineasse ai comportamenti di tutti gli altri retailer competitori? Essere e avere. I see trees of green, red roses too. see them bloom for me and you. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Il tema del focus sui trend di oggi è la nostalgia, il revival. Abbiamo scelto di introdurlo con il fruscio inconfondibile della puntina sul disco in vinile, un fruscio che in tempi di musica digitale sono in molti ormai a rimpiangere, tanto è vero che si moltiplica l'offerta di giradischi che trasformano in traccia digitale i vecchi 33 o 45 giri. Un oggetto simbolo del ponte tra vecchio e nuovo che questa tendenza rappresenta. Ne parliamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Ogni anno dedichiamo una puntata al tema della nostalgia. Abbiamo parlato di neo vintage o nouveau retro, un trend che sta ad indicare un recupero del passato ma in chiave attuale, nei prodotti ma anche negli stili di vita. Patrizia. Può essere la nostalgia, cioè la nostalgia di ieri, oppure può essere nostalgia per un passato più remoto, può significare ripescare dagli archivi della memoria oggetti, grafiche, forme, idee, musiche, storie e riproporle pari pari oggi riversandoli nel presente, oppure riattualizzare delle estetiche vintage con materiali e innesti tecnologici di oggi. In ogni caso, qualsiasi espressione nostalgica continua ad avere presa sul nostro immaginario. La retrofilia, la fascinazione del vintage nasce dall'associazione che si fa tra le cifre espressive, registri comunicativi, gli stili, la grafica del passato, a sentimenti e ricordi positivi in quanto già vissuti, familiari, nel senso di già noti, autentici e rassicuranti. Questa del revival è una tendenza imperante, quindi, e la quantità di merci e oggetti old style nel mondo dei consumi lo dimostra. Tutto ritorna continuamente e in ordine sparso citiamo dal vecchio Dreen, l'inconfondibile squillo dei telefoni anni 60, quelli col disco in cui infilare il dito e comporre il numero, essi stessi naturalmente riproposti, che dilaga sui telefonini al posto delle melodie polifoniche o delle true tones, cioè gli spezzoni di canzoni. E il suono infatti che ricorda il tinello di casa, forse anche le antiche buone maniere conversative. Torna la Vespa PX, il Vespone, e per il suo lancio la Piaggio ha scelto una modella vestita rosa un po' pin-up con le curve alla Marilyn, mora con la veletta nera. E tornano le macchine fotografiche autenticamente retro, che sono un accessorio must a Tokyo, molto ostentato soprattutto dai giovanissimi stilosissimi giapponesi, dalle Reflex Black Paint FM2 alle Pentax della serie 6x7. E tutto torna anche in termini di lifestyle e di abitudini sociali. A Manhattan, la Manhattan Milk Company offre il servizio di consegna a domicilio del latte come nei bei vecchi tempi andati. Bottiglia in vetro appoggiata insieme alla mazzetta dei giornali sulle porte delle case dei newyorkesi. Sempre a New York, Tea Party anni 30 nei vecchi vagoni del metrò. È un'operazione nostalgia che da qualche anno si fa a Manhattan nel periodo natalizio. La società che gestisce i trasporti pubblici dello Stato di New York festeggia appunto rimettendo in funzione un treno della metropolitana del 1930 con cartine e manifesti pubblicitari d'epoca, sedili di vanetti vintage, ventilatori sul soffitto e in circolazione in superficie anche autobus degli anni 50, tutto al costo di una normale corsa $2.25. È un cortocircuito temporale l'effetto che fa la macchina elettrica anni 20 dell'azienda automobilistica giapponese Takayanagi. Ha un posto, è in stile retro, si chiama Miluira. Il modello è esattamente quello delle automobili anni 20, cioè senza tetto, senza le portiere laterali, col volante al centro, linee sinuosissime, bombatissime, in genere bicolore, con grandi ruote sottili e quella di scorta appoggiata sul baule posteriore. È un design che recupera letteralmente le forme archetipiche nelle auto e il motore elettrico la ricolloca però nella postmodernità. Un'auto che non va veloce, non fa grandi distanze, fa 22 miglia con una carica di 12 ore, non si può usare se piove, è un po' scomoda, ma il grandissimo fascino irresistibile appunto dei vecchi tempi andati, belli o brutti che siano, $75.000. Lo stesso vale per la Folding Bike, una bicicletta pieghevole progettata dai designer slovacchi dello studio Pietoff Design. Si chiama One Bike, è da diporto ed è fatta esattamente come i primi velocipedi della Belle Époque di inizio secolo, con la ruota davanti enorme, con la sella al manubrio sopra e il ruotino dietro. In poche mosse la bici si ripiega per essere riposta o trasportata, come le modernissime Folding Bike. Nostalgia anche nel cinema e nelle serie TV, che spesso usiamo come indicatori preziosi di nuove tendenze. Da citare Boardwalk Empire, l'impero del crimine, serie prodotta da Martin Scorsese. La prima stagione è andata in onda l'anno scorso negli Stati Uniti, ha vinto 2 Golden Globe, racconta la corruzione nella Atlantic City del proibizionismo, sotto la patina molto glamour della fotografia d'epoca. È appena sbarcata in Italia su Sky Cinema. Proibizionismo! Gli alcolici verranno dichiarati illegali con un decreto emanato dai gentiluomini del nostro congresso nazionale. Prendiamo quegli splendidi e ignoranti bastardi! L'onore e il piacere di presentarvi lo stimato tesoriere di Atlantic City. Ecco a voi l'onorevole Enoch Thompson. Patrizia, altra serie retro di cui si è già parlato molto, Mad Men, la serie sui pubblicitari di New York ambientata negli anni 50-60. Sì, Mad Men è la serie retro già di culto, che ha fatto tra l'altro tornare nell'immaginario di oggi la donna elegante, quella un po' diva, un po' fatale, un modello anche aspirazionalmente molto interessante oggi. Questo fortunatissimo serial ha generato anche una linea di abiti e accessori disegnati dalla stessa costumista della serie, Jenny Bryant, in vendita online su QVC, il canale televisivo, da qualche mese, e ispirati alla moda vintage, che ha contribuito in maniera decisiva con la sua tonalità glamour d'antan al successo della serie stessa. E sempre all'insegna di un'eleganza perduta, richiamata nostalgicamente in maniera più o meno esplicita, gli esempi sono tanti. Nel mondo della moda, degli accessori, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Le camicie di Acne Jeans, ispirate alle protagoniste di Dynasty, telefilm culto degli anni 80, ma anche tutto l'abbigliamento sportivo da sci old fashion da portare anche in città, con il ritorno dei maglioni di lana oversize con i motivi nordici, il ritorno dei mitici moon boot, per esempio il dopo sci rainbow ispirato a quello degli anni 70 per gli atleti della valanga azzurra, le tute da sci in materiali super tech ma dalla foggia vintage, gli occhiali da sole in acetato, eccetera. E poi le scarpe Nike ispirate alla macchina della trilogia Ritorno al futuro, 1000 esemplari in edizione limitata che hanno generato subito 400.000 pagine sul web. Nel mondo degli accessori sono tornati anche gli orologi di gomma colorata e profumata, oltre agli hip hop dell'85, tale quali ma aromatizzati. Abbinate ai lettori MP3, che sono sempre più lillipuziani, le cuffie per ascoltare la musica, che si sono invece ingigantite con le spugne e il cerchietto da mettere in testa, come quelle che si usavano appunto negli anni 80. E la nostalgia analogica musicale ha ispirato, oltre a moltissimi oggetti techno vintage, un interessante sito, hifiliterature.it, un sito in progress che raccoglie delle bellissime brochure degli impianti stereo dell'epoca d'oro dell'hi-fi, cioè gli anni 40, 50 e anche 60, quando avere un set di casse quadrifoniche significava forse essere nel futuro più che disporre di una buona tecnologia per ascoltare musica. Tantissimi gli oggetti high-tech, gadget e complementi d'arredo, oltre al packaging di prodotti che riprendono i videogiochi da sala giochi del passato e i loro personaggi digitali. Dal flipper alle custodie per iPad, alle librerie a forma di Pac-Man, tra l'altro uno dei tanti videogiochi oggetto delle nuove pratiche sociali di urban gaming di cui abbiamo già parlato, cioè quei videogiochi giocati per le strade delle città parallelamente al gioco sullo schermo. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a New York su Nostalgia dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zambano di Memetic Club. Ciao Alessia. Un saluto a tutti. Beh, l'accessorio più ricercato dai newyorkesi non è l'ultima applicazione per iPad, bensì un numero, il 212, proveniente dall'epoca analogica della Grande Mela. Il 212 è infatti l'originario prefisso dell'area di Manhattan che negli anni 40 venne assegnato alle utenze fisse delle elite cittadine per facilitarle nella digitazione. Sui vecchi telefoni a rotella, come ricordiamo, i primi numeri erano i più comodi. Ebbene, oggi è diventato il prefisso mobile più ambito, un biglietto da visita che meglio di un curriculum o di una lettera di raccomandazione certifica il personale grado di manattitudine, se mi passate il neologismo. Quando il 212 compare sul display evoca immediatamente credibilità e legittimità. In pratica si risponde sempre a una chiamata che comincia con questo prefisso. Ufficialmente l'AT&T, il principale gestore telefonico, dichiara di non avere più 212 disponibili, ma pare che la cosa sia più o meno facilmente aggirabile. I più giovani acquistano l'agognato status su eBay per cifre che si aggirano intorno ai $600 e passa. Si narra poi di un fantomatico negozio di telefonia dell'Upper East Side in cui, lasciando il cellulare, lo si ritira con il nuovo antico prefisso, ma poco è dato sapere sulla procedura. Insomma, pare che nell'odierna scena digitale sia l'elemento vintage retro la vera garanzia di autenticità. Grazie Alessia. Patrizia, sembra sempre un po' una contraddizione in termini parlare di nostalgia e nuove tendenze, però di fatto non è così. Ma questa tendenza al riuso continuo degli stili e dei comportamenti del passato si basa appunto su una fascinazione che continuamente si rinnova, ma continuamente ritorna ai riferimenti grafici, artistici, figurativi, anche ai miti, alle figure archetipiche del passato. Genera anche una creatività che è una ricombinazione selettiva del passato, rivisitazione consolatoria o citazionista che sia, la retrofilia è diventata una prassi anche per la progettualità contemporanea, perché il passato rimane un grandissimo serbatoio vivo, vitalissimo, da cui attingere. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti a essereavere@radio24.it. Se vi siete persi qualcosa potrete scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it sezione podcast, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.